Bene, allora, come dicevo, possiamo iniziare con la nostra serata ringraziando il professor Andrea Bonoldi, che è il nostro ospite questa sera, nonché il presidente del nostro comitato scientifico e che da tanto tempo ci dà una mano e soprattutto è di grande stimolo per tante idee e tante iniziative. Con lui abbiamo iniziato lo scorso anno il percorso Noi e la Storia. E infatti, sia l'anno scorso in autunno che in primavera, e come quest'anno, sia in autunno che questa primavera, avremo una serie di incontri dedicati alla storia, declinata in vari aspetti e anche in vari periodi. E in questo caso, questa sera, l'incontro, La storia economica, sociale e ambientale delle Alpi, percorsi di ricerca, è l'apertura, l'inaugurazione di un ciclo di quattro incontri che si succederanno di qui a breve tempo. Uno sarà il 25 marzo, che è sempre un martedì, alle ore 17:30, con Katia Occhi e Lucia Tedesco dell'Istituto di Studi Italo-Germanici, Fondazione Bruno Kessler di Trento e l'Università degli Studi di Trento. Ci sarà poi il 1° aprile, sempre alle 17:30, un altro incontro. Un modo diverso di possedere i domini collettivi in area alpina tra passato e futuro con Christian Zendri e Giovanni Zagnol, e questa volta sempre l'Università di Trento e il Dipartimento di Economia e Management, sempre dell'Università di Trento, per arrivare poi al 29 di aprile, Stanatura Ognor Verde, geografia storica, patrimonio bioculturale e gestione delle risorse ambientali in area alpina XVIII-XIX secolo con Nicola Gabellieri del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Università di Trento. Avete tutto nel foglietto che viene distribuito e questa sera abbiamo il piacere appunto di inaugurare questo ciclo con il professor Andrea Bonoldi, che ringrazio, perché come dicevo prima nell'apertura ci dà una mano come presidente del comitato scientifico anche nel confezionare, nel costruire, nell'ideare degli incontri di grande qualità, di grande livello e una collaborazione con l'Università di Trento. E questi incontri li registriamo, quindi danno vita poi a un podcast che potete riascoltare oppure far conoscere ad altre persone che non hanno potuto partecipare questa sera tramite il nostro sito. Ecco, si scarica il link oppure semplicemente si accede direttamente. È fornitissimo il nostro podcast perché ne abbiamo 770, credo. Abbiamo registrato tutte le nostre iniziative in questi anni, ormai è un patrimonio storico. Mi piace dirlo ogni tanto. Fuori troverete anche le cartoline delle prossime iniziative, lì ci sono dei suggerimenti di lettura. Auguro a voi una piacevole serata e speriamo di rivedervi anche nei prossimi appuntamenti e soprattutto ringrazio ancora Andrea Bonoldi per la sua collaborazione. Grazie, grazie mille Valeria. Grazie per la possibilità di fare questa presentazione qui con voi oggi, che per me è in parte un dovere istituzionale come membro appunto del comitato scientifico della biblioteca, ma è anche un'occasione appunto per cercare di contribuire alla missione che questa biblioteca sta portando avanti da tanti anni con estrema lucidità, che è quella di essere non soltanto un luogo di conservazione del patrimonio storico, librario, archivistico della provincia di Bolzano, nello specifico della comunità di lingua italiana, ma non soltanto, perché va oltre questa visione così schematica, ma che è un luogo appunto dove si produce ricerca, si fanno dibattiti, si cerca di diffondere quello che viene prodotto dalla ricerca storica, ma non soltanto, anche in tanti altri ambiti scientifici presso un pubblico più vasto. Quindi è un progetto ben strutturato, ben chiaro, che viene portato avanti con molta energia, e questo merito di Valeria e dei suoi collaboratori. Allora, il ciclo che vi presento oggi, che cerco di introdurre oggi, è questo ciclo che si chiama Ambiente, Mercati e Comunità, uno sguardo sulla storia delle Alpi. Ed è un ciclo che abbiamo pensato di organizzare perché ci siamo accorti che la storia delle Alpi in questo periodo, in questi ultimi 10-15 anni, ha avuto un'accelerazione notevole. Cioè ci sono diversi centri di ricerca nell'arco alpino che hanno dato una spinta notevole a nuove ricerche in questo ambito. Nuove ricerche che ovviamente si basano su studi che sono stati fatti in passato, ma che hanno trovato nuova linfa dal fatto che Le Alpi rappresentano un laboratorio estremamente interessante per lo studio di alcuni fenomeni. Uno tra questi, per esempio, di grande urgenza è quello dei cambiamenti climatici. Allora, le Alpi diventano un luogo dove lo studio, l'analisi dell'impatto che i cambiamenti climatici hanno avuto sulle attività umane è particolarmente efficace, perché le Alpi, essendo un territorio estremo, come tutti i territori estremi, sono quelli che risentono di più dei cambiamenti climatici, no? Se io faccio un'attività agricola ad alta quota, al limite delle possibilità di coltivazione, un cambiamento della temperatura, beh, ha un impatto molto forte per me, no? Se mi trovo in pianura, invece, gli effetti sono decisamente diversi. Allora, anche andare a vedere come nel passato sono stati gestiti questi cambiamenti diventa una... e quali strategie sono state adottate poi, no? Per rispondere a questi cambiamenti, perché poi alla fine la storia delle Alpi e la storia di come le popolazioni che vivono nelle Alpi hanno elaborato delle tecniche, delle modalità, delle strategie per adattarsi all'ambiente e ai cambiamenti dell'ambiente, beh, questo studio può darci delle interessanti lezioni anche per capire quali possono essere le strategie che mettiamo in campo, oggi. E come immagine di apertura ho scelto questo quadro di Giovanni Segantini, un quadro che io trovo molto bello e che fa parte di un trittico che Segantini aveva preparato per l'esposizione internazionale di Parigi del 1900. Non riesce a completarlo perché Segantini muore prima. E il trittico è composto da la nascita, la natura e la morte, sono tre passaggi fondamentali. E al di là, insomma, della bellezza dello scenario, qui siamo nelle Alpi dell'Engadina. Ecco, grazie. Perfetto, benissimo. Qui siamo nelle Alpi dell'Engadina, ma è interessante il fatto che nella concezione della natura di Segantini c'è lo splendido paesaggio alpino, ma ci sono anche le persone che vivono all'interno di questo paesaggio. C'è l'allevatore con sua moglie, qui lontano vedete c'è la madre che sta salutando, loro si stanno avviando verso un pascolo probabilmente. C'è questa interazione fra uomo e natura che ha plasmato lo scenario alpino, perché le Alpi come le vediamo noi oggi non sono, come dice qualcuno a volte, se lo sentiamo dire, ambiente incontaminato, no, sono il frutto costante dell'interazione tra uomo e ambiente, i pascoli, i boschi, i percorsi, sono tutte realizzazioni nei secoli che sono servite a gestire questo equilibrio fra uomo e natura che hanno dato luogo alle varie forme di antropizzazione delle Alpi. Allora, questo ciclo nasce proprio per portare alcuni dei risultati fondamentali delle ricerche che ci sono in corso, e sono risultati che hanno a che fare con lo sfruttamento delle risorse naturali, l'ha già detto Valeria prima, boschi e società nelle Alpi, il caso della Valle di Fiemme dell'Ottocento. Perché è interessante questo aspetto? Perché la Valle di Fiemme è uno dei casi storici più rilevanti di capacità di una comunità di gestire il proprio territorio. Voi pensate che la Val di Fiemme ha una proprietà collettiva dei boschi, quindi che non è né privata né pubblica, fa parte, è la proprietà e della comunità, e questa cosa risale fino al 1111. Allora, dal 1111 a oggi, dal 1111 a oggi sono più di 900 anni sostanzialmente, la Valle di Fiemme ha una sua modalità collettiva di gestione dei boschi che è stata capace di, cambiando qualcosa, però di rispondere nel tempo costantemente a quelli che erano i bisogni della popolazione. E se dico gestione dei boschi sto parlando di 11.000 ettari, mica poca roba, no? Quindi ancora oggi la magnifica comunità di Fiemme, che è rappresentata dal suo splendido palazzo in centro a Cavalese, è capace di rispondere ai bisogni della collettività. Tra l'altro anche con una capacità di offrire servizi nuovi, oggi quelli che chiamiamo i servizi ecosistemici, no? Cioè la capacità di conservare l'equilibrio nel bosco, di rispondere anche a quelle che sono le direttive dell'Unione Europea sul recupero ambientale, insomma, e quindi c'è veramente anche una dimostrazione di una caratteristica delle popolazioni alpine, che è proprio quella della capacità di adattamento al mutare delle situazioni. E di questa cosa qua ci parleranno Katia Occhi e Lucia Tedesco, che Katia Occhi è una delle più importanti ricercatrici di storia dello sfruttamento forestale in area alpina. Sicuramente la più importante per quanto riguarda le Alpi meridionali, ma probabilmente la più importante in assoluto. E Lucia Tedesco è una giovane e brillante dottoranda che sta lavorando proprio su questo tema, tra l'altro con un taglio interessante che è il taglio sulla storia del lavoro nei boschi, anche sulla storia delle donne, no? Come partecipavano a questa attività che sembra un'attività prettamente maschile, in realtà poi si è scoperto come anche le donne partecipassero a questa attività. Il secondo incontro invece, il terzo, cioè è quello che vedrà protagonisti due storici del diritto, Christian Zendri che insegna storia del diritto all'Università di Trento, Giovanni Zaniol, che è un ricercatore, un assegnista di ricerca nel mio dipartimento, che presenteranno uno studio che loro stanno facendo sui domini collettivi, proprio su queste modalità di gestione collettiva del territorio diverse da pubblico e privato, per cercare di capire quali sono state le logiche che hanno dato origine a queste forme di gestione, di spiegare perché sono così diffuse in area alpina, qual è stato il motivo per cui proprio in area alpina queste comunità, pensate alle regole di Cortina anche, no? Che hanno una modalità analoga, perché proprio in area alpina sono state così persistenti nel tempo e anche perché tornano oggi a essere una modalità che viene considerata una modalità con tratti di modernità molto forti, con la capacità di rispondere alle esigenze che ci sono. Ultimo incontro, 29 aprile, sta Natura Ogni Or Verde, abbiamo Nicola Gabellieri che è un geografo storico, uno storico della geografia, non so come definirlo, un personaggio eclettico, comunque un giovane collega del Dipartimento di Lettere e Filosofia che ha studiato proprio le modalità di rappresentazione del territorio, il rapporto appunto fra rappresentazione dell'ambiente e attività umane specializzandosi sull'area alpina, ha un approccio quindi multidisciplinare molto stimolante per tanti punti di vista. Quindi queste sono ricerche che sono in corso adesso nell'area di Trento e dintorni, diciamo così tra università, istituto storico italo-germanico, e che testimoniano quanto appunto sia vivace attualmente la ricerca in area alpina. Allora, nella nostra chiacchierata, quello che cerco di fare io oggi è introdurvi un po' alcuni temi, no, che sono legati alle attività economiche e umane economiche, perché io sono uno storico economico e questo è il mio ambito, e umane in area alpina. E lo faccio partendo da questa lettera che è pubblicata nel romanzo che probabilmente conoscete, Jean-Jacques Rousseau, la nuova Eloise, la nouvelle Eloise. E allora, in questo romanzo racconta delle vicende di una coppia che si scrive, no? Si scrivono le lettere, e c'è una lettera che viene scritta dall'Engadina, siamo in piena area alpina, anzi no, dal Vallese, questa valle lunga del Rodano che c'è nelle Alpi Svizzere, una realtà prettamente alpina, e descrive, ha questa descrizione della modalità, della mentalità dei montanari, che è, se vogliamo, una tipizzazione molto forte. Allora dice, peraltro, il denaro è molto scarso nell'Alto Vallese, ma è appunto per questo che gli abitanti sono comodi, perché i commestibili vi sono abbondanti senza alcuno smercio all'estero, senza consumazione di lusso nel paese, e senza che il coltivatore montanaro, del quale i piaceri sono le fatiche, ho qualche dubbio che sia così, però lui la vedeva in questo modo, divenga meno laborioso. Se mai avranno più denaro, saranno più poveri, infallibilmente. Hanno la saggezza di sentirlo e vi sono nel paese delle miniere d'oro che non è permesso di scavare. Allora, che cosa troviamo qui dietro? Troviamo il mito del buon selvaggio, in qualche modo, no? Questa era la sua idea, l'idea che l'uomo incorrotto dalla civiltà, dall'avanzare delle attività commerciali, diciamo dall'avanzare del capitalismo, se vogliamo usare questo termine, vive felice, autosufficiente nelle Alpi, non è corrotto dal denaro, ha una vita autentica. Che è una visione che, se vogliamo, ha dentro di sé qualcosa di giusto, nel senso che effettivamente a lungo nelle Alpi l'attività per raggiungere l'autosufficienza è stata una delle attività principali, fondamentali, no? Che i contadini non hanno utilizzato, cioè sfruttare le risorse del territorio per soddisfare i propri bisogni diretti, perché quelle erano le condizioni, le comunicazioni non erano semplici. E quindi c'era la necessità di riuscire a mettere in campo delle pratiche che consentissero appunto di soddisfare i propri bisogni usando le risorse presenti sul territorio. Ma è una descrizione che non tiene conto del fatto che in realtà le Alpi sono sempre state in contatto con l'esterno, Da sempre c'è stata mobilità in area alpina. C'è stata mobilità in entrata, imprenditori che venivano a sfruttare le risorse del, del territorio, imprenditori che sfruttavano i boschi, per esempio, dell'area dell'Atemar o dell'area del Brenta, del bacino del Cismone, eccetera, erano spesso imprenditori che venivano da fuori con risorse finanziarie importanti. O pensiamo agli imprenditori minerari che venivano a sfruttare le miniere. Cioè c'è stato afflusso importante da fuori, c'è stato afflusso importante verso l'esterno, cioè membri delle popolazioni alpine che andavano a lavorare all'esterno nei tempi in cui nei periodi dell'anno in cui il lavoro agricolo era meno forte, o comunque per integrare i redditi tendenzialmente bassi e scarsi dell'agricoltura di montagna. E c'è stata anche questa mobilità di attraversamento delle Alpi. Le Alpi si trovano alla frontiera fra tre diciamo, aree culturali importanti, quella tedesca, quella francese, quella italiana, mettiamoci anche quella slava, sul limite orientale, e quindi sono stati sempre oggetto di attraversamento per ragioni politiche, per ragioni strategiche, per ragioni anche di natura economica. Quindi una caratteristica delle Alpi è sicuramente anche quella di essere un territorio attraversato da flussi in entrata, in uscita e in attraversamento. E infatti Rousseau avrebbe capito che le cose non stanno esattamente così se avesse tenuto conto del fatto che dove lui descrive questa cosa, no? Quindi nell'Alto Vallese, c'è questo castello, il castello di Stockalper, di Caspar Stockalper. Allora, questo castello che viene realizzato a partire dal 1649 e che sicuramente Rousseau aveva visto, perché Rousseau nel 1744 aveva fatto un viaggio da Venezia a Parigi, in gran parte l'aveva fatto a piedi perché era senza soldi in quel periodo, e a piedi era sceso dal Sempione, e scendendo dal Sempione passava esattamente davanti a questo castello. Allora, questo castello non è il castello di un signore feudale. Tra l'altro, pensate, un castello del 1649, quindi abbastanza anacronistico, no? Anche da questo punto di vista. Ma è il castello costruito da un mercante. Questo Caspar Stockalper era uno che aveva fatto un sacco di soldi vendendo sale, facendo miniere, aprendo miniere, miniere d'oro anche, no? Coniando monete e gestendo traffici, e grazie a questo si era realizzato questo suo simbolo visibile di potere e di potenza. Quindi in realtà una ricchezza che nasceva proprio da un'attività contraria a quella che aveva descritto Rousseau, cioè dall'apertura allo scambio, all'inserimento nel circuito economico internazionale. Tra l'altro vale la pena di andarci, insomma è un bel posto molto affascinante anche per i dintorni. Allora, cerchiamo di contestualizzare un po' il discorso nell'ambito di quella che è la questione fondamentale per l'economia alpina, cioè che è il rapporto fra la popolazione e le risorse. No, l'abbiamo detto prima, in un'area dal punto di vista ambientale estrema come le Alpi, la questione fondamentale è la capacità del territorio di sostenere la popolazione. E il dato fondamentale da cui partire è l'evoluzione della popolazione, cioè noi andando a vedere l'evoluzione della popolazione riusciamo a capire effettivamente se e quando e quanto le strategie messe in atto erano in grado di sostenere la popolazione. Allora vediamo che intorno al 1500 la popolazione alpina era circa di 3 milioni di persone, dopo tre secoli è aumentata a 5,3 milioni di persone, quindi c'è stata una crescita non particolarmente rilevante, probabilmente più bassa di quella che c'è stata in area delle aree circostanti, però comunque consistente. E nel giro di un secolo, tra il 1800 e il 1900, la crescita è una crescita decisamente importante, vedete, arriveremo a quasi 8 milioni, anche se le Alpi in quella fase lì sono un territorio che resta indietro rispetto alle trasformazioni che ci sono altrove, perché altrove c'è la rivoluzione industriale, nelle Alpi la rivoluzione industriale fino a quel momento non c'è. Allora cosa significa questo? Significa che comunque le Alpi in qualche modo erano capaci di garantire, no, risorse per i propri abitanti. E poi vabbè, oggi siamo a circa oltre 14 milioni ormai, no? E quindi l'area alpina è un'area importante dal punto di vista demografico. Quindi da questa visione noi possiamo capire, da questi dati possiamo capire che comunque le attività c'erano, erano attività che avevano a che fare con lo sfruttamento delle risorse locali, ma con l'inserimento negli scambi con le aree circostanti. Allora, cosa sono le Alpi? Come le definiamo? In realtà sembra una cosa quasi scontata, ma non lo è affatto. Se noi andiamo a vedere le definizioni delle Alpi che si danno, troviamo le definizioni dei geografi, che sono una cosa, troviamo le definizioni dei politici, che sono un'altra cosa, perché la definizione di area alpina o area non alpina ha a che fare con i contributi dell'Unione Europea, quindi diventa assolutamente importante, no, stabilire che cosa sia Alpi e che cosa no, perché prendo soldi, più soldi o meno. Allora, alla fine, oggi come oggi, si accetta questa definizione che è un po' un equilibrio fra le due cose, che è quella della Convenzione delle Alpi, no? Che è questa forma di accordo tra i paesi alpini che cerca appunto di stabilire quali sono i territori alpini che rientrano appunto nelle politiche che vengono fatte per favorire lo sviluppo equilibrato in queste aree, ed è questa l'estensione che vedete, che parte dalle Alpi Liguri, passa vicino alla Provenza, a Marsiglia, poi risale lungo il confine francese fino a Ginevra, Losanna, poi a nord sotto Monaco, arriva fino alle porte di Vienna, vedete come limite orientale, poi si scende fino all'entroterra, fino all'entroterra di Trieste e sotto poi fino alla linea che conosciamo, Verona, Bergamo, eccetera, eccetera. Quindi è un'area comunque importante e ampia dal punto di vista geografico, differenziata oggi dal punto di vista politico, Italia, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, con caratteristiche diverse ovviamente che sono legate alle differenze vicende storiche e politiche, ma con tratti comuni, con problemi comuni che si sono evidenziati nel confronto che è stato fatto di quelle che sono le attività umane nei vari territori nel tempo. In questa cartina poi c'è un dato interessante, che è il cambiamento della popolazione negli ultimi 30 anni, dal 1980 al 2010, è un dato un po' vecchio ma è comunque significativo, e fa vedere una cosa. Cosa fa vedere? Fa vedere che ci sono molte aree alpine, che sono quelle indicate in rosso, che stanno conoscendo un ripopolamento, cioè stanno conoscendo una crescita demografica piuttosto rilevante, mentre altre, quelle che sono segnate in blu, stanno conoscendo un rallentamento nella crescita demografica, in alcuni casi anche una perdita. Però oggi le Alpi sono in gran parte attrattive dal punto di vista demografico, no? Quindi tornano ad avere una loro dinamicità, una loro capacità di suscitare interesse e di attirare popolazione. Allora, come lo affrontiamo la questione del rapporto fra popolazione e risorse in area alpina? Qual è la chiave di lettura che fosse giusta, che possiamo trovare per dare una risposta, no, a questa domanda così cruciale? Beh, qua possiamo ricorrere all'aiuto di tre personaggi del passato che hanno sviluppato una visione diversa, se vogliamo, del rapporto tra popolazione e risorse, ma a loro modo comunque interessante e accattivante. Allora, il primo è Thomas Robert Malthus. Allora, Malthus, forse l'avete sentito, no? È quel signore che diceva che in realtà quello che succede è che la popolazione tende solitamente a crescere più della capacità della popolazione stessa di generare nuove risorse alimentari. Quindi a un certo punto, inevitabilmente, no, deve intervenire qualcosa che blocchi la crescita demografica, no? E questa cosa sono le guerre, le malattie, le epidemie e così. Questa è una visione che descriveva molto bene quello che succedeva nel mondo preindustriale, no? In cui la popolazione cresceva fino a un certo punto, poi dopo interveniva qualcosa che bloccava la crescita, la peste nera del 1348, la guerra dei 30 anni e via di questo passo. Allora, nel suo libro, che è un saggio sul principio di popolazione, che è uscito nel 1798, prima anonimo, perché Malthus era un esponente della Chiesa anglicana, e in questo libro dice delle cose che non sono proprio cristianissime, no? Dice per esempio che non bisogna aiutare i poveri, perché sennò i poveri sono convinti di star bene, fanno troppi figli e gravano sul bilancio pubblico. E allora inizialmente lo pubblica anonimo, poi dopo ci mette il nome successivamente. E lui era proprio andato a studiare un cantone svizzero, un cantone, un paese, una località, Leising, che si trova nel cantone di Vaud, e aveva visto che questa era una società statica, cioè una società che manteneva nel tempo, aveva trovato delle strategie autonome per mantenere nel tempo l'equilibrio tra la popolazione e le risorse. E queste strategie avevano a che fare con lo spostamento dell'età del matrimonio. Cioè, se la popolazione cresceva troppo, le coppie si sposavano più tardi e quindi riducevano il periodo di fertilità della donna, riducevano il numero di figli, e questo consentiva di mantenere l'equilibrio tra popolazione e risorse. Se pensate, questa è una cosa per molti versi simile anche all'idea del maso chiuso, no? Il maso chiuso che c'è in Alto Adige, che viene trasmesso solamente al primogenito, è qualcosa che svantaggia gli altri, no? E quindi li induce anche a essere meno prolifici. E se infatti confrontiamo l'andamento demografico dell'Alto Adige e del Trentino, questo fino a in realtà i primi 2-3 decenni del Novecento, beh, il Trentino era molto più popolato dell'Alto Adige. Lì, e questa cosa ha garantito per il Trentino un migliore rapporto fra la popolazione, per l'Alto Adige, scusate, la popolazione di risorse. E infatti, mentre il Trentino nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, è terra di emigrazione, la gente se ne va perché la frammentazione fondiaria non consente alla popolazione di sopravvivere, l'Alto Adige è molto meno terra di emigrazione. Cioè, non che non ci fossero dei fenomeni di marginalità sociale anche in Alto Adige, ma questa cosa si verifica in misura molto minore rispetto al Trentino, rispetto ad altre aree alpine. Allora, Malthus dice, sì, ci sono dei freni preventivi appunto che la popolazione riesce a capire, sanno benissimo che non bisogna esagerare, per mantenere il rapporto popolazione risorse si fanno queste cose. Ma dice un'altra cosa, Malthus osserva però che il fatto che ci siano delle attività manifatturiere anche, perché nelle Alpi poi si comincia anche a fare industria a domicilio, a lavorare per le grandi fabbriche di Zurigo, no? Si fanno una parte dei lavori, e che ci sia emigrazione stagionale, beh, questo è qualcosa che può rompere un po' questa idea dell'equilibrio, perché arrivano nuove risorse da fuori e quindi questo può consentire di infrangere questa regola ferrea appunto del rapporto da popolazione e risorse. Adam Smith vede le cose in modo molto diverso. Adam Smith nasce prima di Malthus e scrive la sua opera La ricchezza delle nazioni prima di Malthus. Lui dice la crescita della popolazione in realtà è positiva, perché la crescita delle popolazioni non solo mette a disposizione più fattore lavoro, quindi ci sono più energie, più risorse, ma è anche qualcosa che consente di dividere di più il lavoro tra le persone e di specializzarlo meglio. Quindi io posso trovare qualcuno che è più in grado di fare, ha più talento naturale per fare un determinato lavoro, e questo aumenta la produttività del lavoro stesso, no? Io sono il contadino che devo fare tutto, devo farmi i vestiti in casa, gli attrezzi, devo coltivare la terra, devo aggiustare il tetto del fienile, devo fare tutto quanto come fanno i contadini, e questa cosa ha senso. Ma se io posso specializzarmi e fare solo l'attività agricola o solo la produzione di attrezzi o solo l'attività di produzione artigianale di vestiti, beh, insomma, il risultato alla fine è senz'altro migliore, no? Perché divento più abile nel fare queste cose. E gli scambi, in realtà, quindi la possibilità di scambiare le cose, no? Di mettere in contatto questi talenti, queste possibilità diverse, sono un fattore che in realtà fa crescere la popolazione. Quindi qualcuno che va a guardare il rapporto fra popolazione e risorse, qualcun altro, Smith, che dà importanza agli scambi, al mercato, all'apertura e alla divisione del lavoro. Terzo e ultimo, Karl Polanyi, che scrive La grande trasformazione nel 1944 come una critica in qualche modo alla società capitalistica, e dice il nostro modo di interpretare l'economia anche del passato è un modo sbagliato, perché noi applichiamo le nostre mentalità attuale per interpretare le società del passato. Le società del passato avevano una mentalità molto diversa, in realtà, in cui il tornaconto personale, in cui il profitto, eccetera, avevano un valore sottodimensionato rispetto ad altri valori. Cioè, l'attività economica non è un'attività che si può considerare distinta rispetto a quelli che sono gli altri ambiti di vita delle persone. Era embedded, diceva lui, cioè radicata all'interno di quello che era il sistema di valori, il sistema religioso, il sistema culturale nel suo complesso delle società. E quindi dovevamo capire qual era questo sistema di valori per comprendere anche quali erano i motivi che spingevano le persone a comportarsi in un certo modo. Se andiamo a vedere il calendario lavorativo fino alla fine del Settecento, più o meno, i giorni di festa erano molti di più di quelli che abbiamo adesso. Cioè, lavoravano di meno. Perché? Perché rispettavano i precetti religiosi, in qualche modo. Qualcuno dice anche perché dovevano riposarsi di più, perché lavoravano, facendo dei lavori da bestie. Però c'era questa importanza che veniva data al fatto religioso, e la domenica, per esempio, non si lavorava, non si doveva lavorare assolutamente, no? Cosa che noi oggi a volte ci dimentichiamo. Allora, lui diceva che i motivi che spingevano le persone a comportarsi in un certo modo erano la reciprocità, l'idea che ci dovesse essere reciprocità nelle azioni all'interno di una comunità. La redistribuzione, l'idea che chi avesse delle ricchezze le dovesse ridistribuire in qualche modo, no? Tra le persone. Qua c'è un'idea che è legata anche a una certa azione della classe dirigente. Il fatto che fosse prevalente la forma dell'economia domestica, quindi dell'autoproduzione, non c'è scambio in questo caso, non c'è un'idea di accumulazione di tipo capitalistico, e solo alla fine arriva il mercato. La grande lezione di Polanyi è proprio questa, no? È quella di dover interpretare, cercare di interpretare le scelte economiche, ma questo vale anche per le scelte politiche, per le scelte religiose, per le scelte militari, per qualunque cosa delle popolazioni del passato, mettendosi i loro occhiali, no? Cercando di utilizzare questa chiave di lettura. E allora noi che siamo spregiudicati li usiamo tutti e tre, perché così in questo modo questo ci aiuta, no, ad avere una visione diversificata di come vanno le cose. E per dire che le Alpi sono ancora oggi, e oggi più che mai, una chiave importantissima nel mercato europeo, qui vi ho presentato una piccola statistica del traffico delle merci attraverso le Alpi, dove vediamo che le Alpi sono un corridoio, no, fondamentale di commercio. La porzione in blu della torta è il traffico stradale, quella in verde è il traffico ferroviario, e qui vediamo che il Gottardo che ha un'infrastruttura ferroviaria, il tunnel, no, che ha sviluppato molto adesso, ha una porzione di traffico ferroviario molto più alta rispetto al Brennero, ma qui col tunnel del Brennero probabilmente le cose poi cambieranno in maniera significativa. Ma quello che vediamo è che il Brennero è di gran lunga il passo più importante, no? Questa linea che passa, questa linea di scambi che passa attraverso la Valle dell'Adige, poi arriva a Innsbruck e poi arriva dall'altra parte, non dobbiamo dimenticarci che l'Inn è connesso al Danubio e questo in passato aveva promosso anche la navigazione via acqua, è oggi come in passato una via fondamentale. E le altre vie sono il Mon Ginevro, il Mon Cenisio, il Monte Bianco, cioè troviamo qui delle linee, delle direttrici di trasporto, di scambio, che hanno avuto nella storia un ruolo politico e sociale molto importante. E se andiamo a vedere le statistiche nel passato, ritroviamo la stessa cosa, no? È abbastanza curioso vedere come ci sia una costante da questo punto di vista che ha a che fare realmente con la conformazione fisica, insomma. Il Brennero è avvantaggiato. È vero che, curiosamente, il Brennero si trova nel punto in cui le Alpi sono più larghe, no? Più profonde. Però è vero anche che c'è la Valle dell'Adige che va dentro, c'è un passo che è relativamente facile, agevole da passare, che si poteva navigare sull'Adige fino a Bronzolo, quindi fino, e che poi dopo da Hall in giù si poteva di nuovo utilizzare la via d'acqua, e questo ovviamente avvantaggiava le cose. Quindi in passato, vedete, c'era il Mon Cenisio che aveva una certa rilevanza per i traffici verso la Francia, c'era il Gottardo che univa l'area italiana e l'area svizzera, e poi il Brennero, vedete, che era di gran lunga il passo che aveva la più grande rilevanza nei cambiamenti. Ora, chi attraversava le Alpi però si misurava col fatto che le Alpi erano un luogo radicalmente, profondamente diverso rispetto a quello che conoscevano. Questo, se noi andiamo a vedere quelle che sono le descrizioni dei viaggiatori che attraversano le Alpi, no, lo vediamo anche nel mondo romano, la descrizione che i geografi dell'antichità classica fanno delle Alpi è quella di un luogo freddo, inospitale, no? Profondamente diverso rispetto al loro canone, che era quello del Mediterraneo sostanzialmente, no? E anche qua in questa descrizione che viene fatta delle attività della vita di Anselmo, che era un presbitero medievale, beh, descrive il suo passaggio nell'area di Bressanone così, no? In luogo si quidem horrid ed asperimo, in medis nivalibus alpibus, ubi fames assidua et frigus pene semper continuum. Allora, che cos'è? È un luogo orrido ed asperimo, in mezzo alle Alpi ricoperte di neve, dove c'è sempre fame e sempre freddo, insomma un postaccio terrificante, no? Questo, Alpi. Eppure, e questo qua, qui vedete Enrico VII Lussemburgo e sua moglie Margherita del Brabante che attraversano il Mon Cenisio, quindi siamo dall'altra parte delle Alpi nella parte occidentale, e se guardate le facce di Margherita e di Enrico, insomma, sono abbastanza preoccupati, no, di dover fare questo viaggio attraverso le Alpi, che sono un passaggio pericoloso. Ma nonostante questo, insomma, le Alpi sono un luogo dove le attività umane, gli insediamenti umani ci sono, si fanno e sono importanti. Quale vediamo quello che vi dicevo, no? Questa è la conformazione, la barriera fisica che le Alpi rappresentano, la circolazione di merci, di persone tra l'area mediterranea e l'area dell'Europa centro-settentrionale, quindi due aree fondamentali della storia europea, una barriera fisica significativa, ma che viene attraversata da percorsi importanti, e qua vi dicevo il sistema, questo è il sistema Brennero-Resia, no, che consente il passaggio. Questa è la via Claudio Augusta, giusto per richiamare anche il nome della nostra biblioteca, no, che passava di qua, e che consente appunto di mettere in rapporto le varie aree geografiche. E questa mobilità è una mobilità che noi troviamo costantemente nella storia. E qui c'è un record che forse non conoscete, un record che spetta al nostro territorio, inteso in senso ampio, che è la più antica testimonianza di utilizzo di prodotti delle api che ci sia al mondo. Questo record viene condiviso con un altro insediamento che è stato studiato da poco. È una prima testimonianza dell'utilizzo di cera delle api come fissante per coloranti, che troviamo in un insediamento di cacciatori mesolitici, che è stato trovato vicino a Grigno, al riparo d'Almeri, si trova sull'altipiano di Asiago, e per fissare il colore di questa pietra che vedete con questo animale rappresentato è stato fatto un film di cera d'api che ha consentito di evitare che il colore andasse perduto. Allora, cosa testimonia questa cosa? A parte il record appunto è importante, l'idea è che le Alpi erano colonizzate già allora, che il mesolitico è parte dalla fine dell'ultima glaciazione, quindi le Alpi cominciano a essere più accessibili per le popolazioni che si spostano, non solo, ma anche lo scioglimento dei ghiacci aveva reso le aree di pianura più paludose, più difficili, quindi si comincia ad avventurarsi anche altrove. Questa, non è detto che la cera fosse prodotta da api che stavano lì, probabilmente magari se l'hanno portata dietro dalla pianura, no? Ma comunque è una testimonianza affascinante di questa mobilità delle popolazioni dell'epoca. Una mobilità che poi era resa comunque difficile dalle Alpi, perché attraversare le Alpi era complicato. Qua vediamo insomma nel 1500 come viene rappresentato il rischio che correvano coloro che passavano per, in questo caso, per il Gottardo, no? C'erano le valanghe che arrivavano a colpire le carovane di sumeggiatori che attraversavano il passo e che quindi correvano il rischio di rimanere coperti, ma sepolti. Ma le Alpi sono ricche anche di risorse importanti, che vi dicevo, che vengono sfruttate nel corso del tempo. Una risorsa fondamentale era quella, e questa già in età romana, era quella mineraria. Le Alpi sono un deposito di minerali fondamentali, estremamente importante. Questo dà origine appunto anche a flussi imprenditoriali dall'esterno e a un arrivo di risorse significative. Tra la fine del 400 e l'inizio del 400 l'area di Schwaz vicino a Innsbruck è l'area mineraria più importante d'Europa. Schwaz in quegli anni diventa la città più grande delle Alpi perché attira manodopera da fuori. L'attività viene gestita dai Fugger, da questa grande famiglia mercantile di Augsburg, che siccome avevano prestato i soldi alla Casa d'Austria, la Casa d'Austria non aveva modo di ripagare questi debiti, ha detto vabbè, prenditi le miniere, gestiscitele tu per un po', no? Così ripago questo debito. Il che però è un vantaggio, perché i Fugger portano una mentalità imprenditoriale, novità tecniche, gestiscono in maniera con un'ottica strettamente aziendalistica, no? Il funzionamento delle miniere, e questo dà un grande vantaggio. Miniere ce ne sono ovunque nelle Alpi, hanno dato origine a attività importanti. Allora, se pensate, per tornare all'idea appunto del lungo periodo, no? Nello sfruttamento delle risorse in area alpina, una delle città dell'Italia settentrionale più ricca per le attività industriali e manufatturiere è Brescia, no? Brescia, che è una città insomma poco appariscente, in realtà piena di tesori d'arte interessantissimi, è una città estremamente ricca. Ricca grazie all'attività economica. Cosa si fa a Brescia? L'acciaio. No? I bresciani fanno i tondini, no? Si dice che i bresciani hanno fatto i tondini per tutto il mondo. Allora, hanno, e poi c'è l'attività di produzione delle armi, sappiamo la Beretta, no? La Valtrompia, insomma c'è un distretto importante delle armi. Quindi attività di produzione e lavorazione dei minerali ferrosi che risale in realtà all'epoca romana. Brescia era diventata una città ricchissima già in età romana proprio in connessione a questo sfruttamento di questa attività economica del suo hinterland, e questa cosa è durata nel lungo periodo per arrivare fino ad oggi. E poi c'è quella che era l'attività che tutti facevano, che era l'attività appunto della lavorazione della terra. Questa è un'immagine che voi conoscete sicuramente, che è tratta dal ciclo dei mesi di Torre Aquila, che è una straordinaria testimonianza di come vivevano gli uomini e le donne del passato. Perché una straordinaria testimonianza? Un prodotto è una realizzazione attorno al 1400, è straordinario perché in questo ciclo viene rappresentata sia la vita delle classi privilegiate, quindi l'attività dei nobili, la caccia, la danza, eccetera, sia l'attività delle classi meno privilegiate, quindi troviamo tutte le fasi dei lavori che venivano fatti nell'anno, ed è una straordinaria testimonianza di come si vestivano, quali strumenti utilizzavano, quali erano le tecniche agricole che venivano impiegate. Questo è il mese d'agosto e qui vediamo questi signori, no, vestiti di bianco, probabilmente di lino, che oggi è molto di moda, no, in estate vestirsi di lino, lì qui era ovviamente una scelta dovuta alla necessità, che falciano, che mietono il grano, vedete, utilizzando dei falcetti bassi, quindi un lavoro molto difficile. Qua vediamo un capo che poi trascina il prodotto fuori dall'area dove si lavora. Quindi abbiamo una molteplicità di attività sul territorio che è condizionata da quelle che sono le caratteristiche fondamentali della realtà alpina. Quali sono queste caratteristiche? Sono la verticalità, no? Sembra banale dirlo, le montagne sono verticali, vanno in su, ma questa cosa qui cambia moltissimo le possibilità di sfruttamento, no, delle risorse, perché ovviamente la verticalità crea problemi nella gestione del territorio. Io sono un campo in piano, se ce l'ho in pendenza, insomma, lavoro in modo diverso, la gestione delle acque è differente, e poi c'è anche una questione che è legata alla complessità della conformazione geografica del territorio, perché se la mia valle è esposta a sud, allora, se il mio versante è esposto a sud, allora è un discorso, se è esposto a nord invece cambia tutto, no? Se noi oggi andiamo a vedere quali sono le valli trasversali nelle Alpi, la Pusteria, la Venosta, eccetera, vediamo che sui due versanti cambia molto le modalità di sfruttamento, no, del territorio, perché dipendono strettamente dall'irraggiamento solare. E la verticalità, il fatto appunto che i cicli naturali cambiano con l'altezza, con l'altitudine, con la quota, e avevano portato a una strategia nel tempo di suddivisione nel corso dell'anno delle attività che venivano svolte. Questo è un piccolo schema fatto in Svizzera che ci fa vedere quali erano le attività che si facevano in area alpina, partendo dal fondovalle, quindi dal fondovalle ai 1300 metri, dove si faceva appunto allevamento. Questa è un'attività che riguarda soprattutto il versante settentrionale delle Alpi, dove l'allevamento è un'attività veramente importante. Lo è anche per il sud, ma un po' meno, perché sul versante meridionale delle Alpi è anche un po' più possibile fare attività di coltivazione dei campi, cosa che sul versante settentrionale delle Alpi è un po' più difficile, anche per quei motivi che ho detto, no? Per motivi climatici. Però è interessante vedere come si utilizzano le diverse possibilità che le quote danno per sfruttarle durante l'anno, e quindi si è sviluppato questo sistema per cui a partire da maggio si abbandonava quel bestiame del fondovalle, ci trasferiva nei maggenghi, che erano queste malghe che si trovavano a mezza quota. Si sfruttava il fatto che lì c'erano già dei pascoli disponibili in qualche modo, quindi io potevo liberare i pascoli di fondovalle per produrre il fieno che mi serviva poi per la stagione invernale, perché il problema era poi come dare da mangiare agli animali in inverno. E una volta che si era sfruttato il pascolo, poi verso luglio ci si trasferiva alle quote più alte, no, agli alpeggi in montagna, si liberava di nuovo il pascolo qui per la fienagione. E poi dopo, una volta che si era sfruttato in pieno l'alpeggio, ad ottobre poi si ridiscendeva, e nel frattempo nelle diverse aree è stato sfruttato il fieno. Quindi vedete una strategia complessa elaborata che cerca di sfruttare, no, questa verticalità che può essere un ostacolo, ma se viene sfruttata adeguatamente diventa anche un vantaggio. Ed ecco anche che la geografia incide, no, in maniera significativa sulle politiche, sull'economia, sull'attività, sui traffici che vengono fatti. e distribuisce in maniera significativa quelle che sono le attività umane. Ho scelto di mettere questa figura che a me piace moltissimo, le mucche che ridono, no? Che si trovano nella chiesa di San Procolo e sono della festività carolingia molto, molto interessanti. Ma le Alpi erano, appunto, vi dicevo, avevamo visto prima col Brennero, inserite in questi grandi circuiti di commercio internazionali. Quello che, vediamo qua è una rappresentazione di quelli che erano i circuiti commerciali più importanti in età medievale. Nell'età medievale piena e nel tardo medioevo. Allora, in piena età medievale il circuito più importante era quello che partiva dalla pianura padana, attraversava le Alpi nella parte occidentale e risaliva al Rodano a partire da Marsiglia e arrivava alle fiere della Champagne, dello Champagne, che erano qui, che erano un punto di snodo fondamentale verso il mercato dei Paesi Bassi e dell'Inghilterra. Col tempo però cresce l'importanza in realtà dell'area tedesca, no? Cioè, c'è uno spostamento dell'asse verso est, no? Noi oggi spesso tradizionalmente siamo portati a pensare, no, che la scoperta dell'America ha portato a uno spostamento dell'asse verso ovest. Questo è vero che è successo, è diventato molto importante il commercio atlantico, e questo ha in qualche modo svantaggiato, no, il Mediterraneo, ha svantaggiato l'Europa centrale. Però non dobbiamo dimenticarci che una parte significativa del traffico si era spostata in quell'area lì, continua ad esserci, no? E quindi continua a coinvolgere operatori, città, eccetera. E qui vediamo che in questo spostamento che avviene nel corso del 400 verso l'area tedesca sono protagonisti passi invece delle Alpi centrali come il Gottardo e centro-orientali come in particolare il Brennero e anche Bolzano con le sue figlie. Diventa uno degli snodi cruciali in questa attività. Ora, per capire come le attività economiche si inseriscono nel contesto alpino, dobbiamo leggerle sempre in relazione a quella che è la struttura istituzionale, cioè quelli che sono i poteri che agiscono sul territorio e quelli che sono le regole che governano l'interazione fra i soggetti. Questo è fondamentale, cioè qual è il sistema legale, no? Abbiamo già visto la differenza che c'è fra il diritto successorio latino che consente la frammentazione del terreno, la divisione fra i fratelli, mentre invece il diritto di stampo germanico che tutela la sippe, no? Tutela l'interesse della famiglia e quindi non consente questa frammentazione. Allora c'è questo passaggio di Clavadeccia, che era uno storico svizzero, in cui sintetizza bene questo aspetto. Dice: la regione alpina è caratterizzata da una bassa fertilità dovuta all'altitudine e alla scarsa quantità di suolo utilizzabile da un lato e dalla posizione dei valichi con le sue implicazioni per quanto riguarda i trasporti ma anche la politica dall'alto, no? Le Alpi sono sono al centro anche di quelle che sono che è il gioco della politica sullo scacchiere europeo, no? Sono delle chiavi, dei valichi di passaggio fondamentali, no? Sull'Italia che è un'ambizione politica da sempre, e quindi le Alpi diventano un luogo in cui è importante stabilire degli equilibri politici per controllare il passaggio, no? Da una parte all'altra. A seconda dell'intensità delle relazioni tra le aree nord e sud delle Alpi, le zone alpine ebbero modo di condurre un'esistenza a sé stante, cioè svilupparsi in modo indipendente, oppure divennero oggetto di scontri fra soggetti politici. E qui, questo è un argomento che qua ovviamente non riusciamo ad approfondire, ma che è molto interessante perché ci aiuta a capire come si sono articolati i poteri in area alpina. Cioè la nascita del Principato Vescovile di Bressanone, del Principato Vescovile di Trento, è una nascita che è dovuta sostanzialmente dalla volontà dell'imperatore di porre a presidio del passaggio delle Alpi due istituzioni come quelle vescovili che riteneva essere più controllabili rispetto a quelle di una casata, no, nobiliare, che poi lo stesso si è fatta largo perché in Tirolo erano estremamente spregiudicati, no, alla fine l'hanno fatto, ma la logica è proprio quella: io metto a presidio dei passi dei principati vescovili perché questo mi consente in qualche modo di avere un maggiore controllo su questo passaggio strategico. E storicamente nel tempo, insomma, le Alpi hanno sempre svolto questa funzione in modo interessante, no? E per i romani le Alpi diventano importanti e si supera questa idea delle Alpi come confine invalicabile nel momento in cui c'è l'espansione verso la Gallia prima e verso l'Imes Renano Danubiano dopo, no? Ecco, e quindi le Alpi devono essere in qualche modo portate sotto il controllo romano proprio per garantirsi questi passaggi verso questa espansione romana verso nord. E questo è forse un momento che avete visto, che si trova in un posto bellissimo, che è la Turbiche, sopra Monte Carlo, praticamente avete una vista stupenda sulla Costa Azzurra da sopra, ed è un trofeo che è stato eretto da Augusto proprio per celebrare il raggiungimento del controllo delle Alpi. E c'è il nome di tutti i popoli alpini sotto, che sono stati sottomessi. Si trova sulla via Giulia Augusta, in questo caso, che collegava Piacenza con il sud della Francia, e sta a testimoniare appunto l'importanza che veniva assegnata al controllo di questi valichi. La via Claudia Augusta era il frutto appunto di questa necessità di creare un corridoio controllato per arrivare appunto verso il limes renano-danubiano, il confine col mondo germanico. E c'è un libro che è uscito relativamente di recente, molto bello, scritto molto bene, da Silvia Giorcelli Bersani, che è L'impero in quote, i Romani e le Alpi, e descrive come i Romani vedevano le Alpi e descrive anche questo racconto che passa da un'iniziale diffidenza nei confronti di questo mondo alpino così diverso a una graduale invece penetrazione. Troviamo dei personaggi ambiziosi anche del mondo romano che trovano nelle Alpi un modo per affermarsi, per mettere in piedi attività economiche e politiche interessanti, e quindi è una descrizione molto variegata di quello che facevano i Romani in area alpina. Anche 2012, anche piuttosto recente, questo bel libro di Caterina Winkler, che tra l'altro è ricercatrice adesso all'Università di Trento, sul tardo antico e alto medioevo, tra il 500 e l'800, no? Questo periodo difficilmente descrivibile, in cui le fonti sono rare, ma lei è riuscita a raccontare bene che cosa succede nelle Alpi in questo periodo dal punto di vista politico e economico. Questo libro ha un altro grande vantaggio, è open access, si può scaricare liberamente dalla rete, quindi si può leggere facilmente. Ecco, vi dicevo la politica, perché conta, perché è importante. Torno indietro, Valerio, vuoi fare la foto? Ecco qua. Ah, ma se avete delle domande o dei dubbi, fermatemi, non è, perché io mi annoio a parlare da solo poi. Se volete chiedervi qualcosa, interrompete pure. Ecco, allora, la dimensione politica. Perché conta la dimensione politica? Perché la dimensione politica è importante e significativa? Beh, qua vedete un po' cosa succede nel tempo. Qua tra il 1000 e il 1400, no? Questo è il periodo post-carolingio, sostanzialmente, in cui l'Europa è suddivisa in grandi aree di influenza. Poi non dobbiamo immaginarci un potere politico che ha un controllo assiduo del territorio come oggi, capillare del territorio come oggi, no? Il controllo era molto più lasco, ma almeno dal punto di vista formale, diciamo, le aree di potere erano abbastanza definite, abbastanza ampie. Beh, nel 1400 le cose sono cambiate in maniera piuttosto radicale. Vedete quanto forte è la frammentazione, soprattutto nell'area germanica, un po' meno in area alpina, ma anche qui si sono affermati nuovi poteri diversi che hanno stretto un po' le fila sul territorio e che cominciano a affermarsi anche con modalità di controllo più stringenti rispetto a prima. Dazi, pedaggi che vengono riscossi, attività militare, insomma, in modo molto più concentrato sul territorio. E in questo contesto è interessante la vicenda di due realtà che si trovano, una a occidente e una al centro, nella parte centro-orientale delle Alpi, che sono la Savoia e il Tirolo. Savoia e il Tirolo che hanno una storia simile per molti versi. Cioè sono due realtà statuali che si formano nel tempo a cavallo di un passo. Sono quelli che un geografo tedesco degli anni 20, che si chiamava Haushofer, ha definito Passstate, cioè stati di passo, no? Stati di passo che nascono non da una parte o dall'altra dello spartiacque, come siamo abituati noi nella nostra concezione, ma nascono proprio sfruttando il fatto di trovarsi su un'area di passaggio, che è un'area importante, e utilizzando le risorse e le capacità che ci sono dalle due parti dello spartiacque stesso. Qui i passi sono quello del Moncenisio, Monginevro un po' meno perché era poco frequentato, ma il piccolo San Bernardo, e qui i passi sono quelli di Resia e del Brennero e poi verso nord, poi il Fern Pass e altri. Allora, qua sì, nel tempo si creano due potenze, che sono una la Savoia, che poi avrà un ruolo importante, lo sappiamo anche nella nostra storia nazionale, e qui il Tirolo, che comunque avrà una sua funzione importante nella geopolitica europea e che poi successivamente passerà agli Asburgo, insomma la conosciamo la vicenda. Ma l'aspetto interessante è vedere come qui ci sia questa costruzione politica, no? A cavallo delle Alpi, che viene fatta sfruttando questa posizione passaggio, no? Di questi corridoi che attraversano le Alpi e che creano ricchezza, perché chiaramente perché i Tirolo possono permettersi di portare avanti la loro politica di potenza? Perché riscuotono pedaggi da tutti coloro che passano, no? Hanno poi anche un po' d'argento sul loro territorio, questo spiega anche perché la zecca prima di Merano e poi di Cal diventano così importanti, insomma, no? Come si faceva a pagare il pedaggio? Inizialmente in barre d'argento, e poi prendevano l'argento, lo fondevano, lo coniavano e facevano le monete che giravano. Ma al di là della dimensione politica, poi, insomma, gli attori che partecipano alla vita nelle Alpi sono tanti, no? A diversi livelli, qua li troviamo rappresentati, no? Nelle loro diverse attività. C'è questa figura un po' stereotipata del colporteur tirolese. Chi era il colporteur? Era il mercante ambulante, no? Che girava, che portava le merci e le vendeva di casa in casa, che piaceva tantissimo agli inglesi, piaceva un sacco la storia delle Alpi. Erano innamorati pazzi di Andreas Hofer. Hanno una produzione straordinaria su Andreas Hofer, visto come questo eroe romantico, no? C'è questa romanticizzazione delle Alpi, Guglielmo Tell, eccetera. Qui vedete invece un'attività molto meno romantica per tanti versi, che invece che sono i lavori nei campi in Val Monastero, no? No? Qui vedete come, insomma, ottima osservazione, no? Quanta gente serviva, quanto lavoro serviva per lavorare su un campo, no? Questa è una delle questioni fondamentali delle Alpi, no? Cioè il fatto che l'attività agricola in area alpina richiedeva una quantità enorme di lavoro, no? E questo spiega anche perché nelle Alpi le casate nobiliari fossero meno forti che in altre aree, perché era poco conveniente avere territori in area alpina, serviva troppo lavoro per gestirle, non funzionava, le entrate erano troppo basse, e questo spiega anche perché le Alpi siano una terra tra virgolette più libera, no? Rispetto ad altre con meno presenza signorile. E poi questo è il nostro Caspar Stockalper von Thurm, il signore di cui vi ho detto che è diventato un ricco mercante grazie al controllo del valico del Sempione, che lui stesso poi ha attrezzato con la strada, insomma. Quindi sono veramente tante le attività che si fanno. Tra queste attività c'erano anche le fiere che venivano tenute. Questa è la fiera di Zurzach, che si teneva in Svizzera, e qui troviamo rappresentato uno degli appuntamenti più importanti della fiera di Zurzach, che era il ballo delle prostitute e del mercato dei cavalli. Perché come tutte le fiere, in realtà, che erano un luogo in cui i mercanti erano lontani da casa, si trovavano concentrati, giravano i soldi, ovviamente si scambiavano le merci, ma poi c'erano anche i piaceri, gli intrattenimenti locali. Quindi Alpi aperte, Alpi in cui circolano idee, circolano costumi diversi, e che in realtà riescono a tenere il passo, tengono bene il passo rispetto a quelle che sono le grandi trasformazioni dell'economia europea fino al 1800, e dopo però improvvisamente si trovano in difficoltà da questo punto di vista. Qual è il problema delle Alpi? Il problema delle Alpi è che non hanno le risorse giuste per partecipare alla rivoluzione industriale. Nelle Alpi non c'è carbone, che è la base energetica della rivoluzione industriale. È difficile farci arrivare le merci da fuori, questo prodotto energetico da fuori, è difficile mettere in relazione le Alpi con il resto del territorio. Costruire le ferrovie in montagna è più complicato che costruirle fuori, infatti ci vuole più tempo per far arrivare la ferrovia in montagna, e tutti questi fattori in qualche modo incidono sul fatto che l'industrializzazione delle Alpi sia ritardata. Anche la cosa che diceva lei del tanto lavoro necessario per l'agricoltura di montagna faceva sì che la forza lavoro disponibile per l'industria fosse scarsa, non nelle Alpi, e quindi le Alpi restano indietro nel corso dell'Ottocento. L'aspetto interessante è che qui a un certo punto, circa a partire dalla metà dell'Ottocento, le élite alpine, la classe dirigente, comincia a rendersi conto del problema, dice qua le cose cominciano ad andare male, no? Bolzano, che era stata una città ricchissima fino alla fine del Settecento, adesso invece scrive una bella addormentata, no? Perché non riusciamo a portare avanti una modernizzazione del nostro tessuto produttivo, non abbiamo industrie, e si comincia solo lentamente questa trasformazione, ma a un certo punto ci sarà una spinta importante verso la fine dell'Ottocento, che sarà dovuta a due fattori fondamentali. Uno è l'elettricità, no, questa nuova forma di energia che trasforma quello che era uno svantaggio precedente invece in una posizione di vantaggio. Le Alpi sono le grandi produttrici dell'elettricità, l'elettricità comincia a sostituire il carbone e quindi nelle Alpi si diffonde la produzione di elettricità. Qua c'è questa bellissima immagine, secondo me, che fa vedere come viene trasportato l'alternatore per la centrale di Tell. La centrale di Tell è la prima centrale idroelettrica di grandi dimensioni significative, la prima vera centrale idroelettrica costruita in Alto Adige. La vedete se passate la strada, insomma, dopo la Forst, no, che risale, c'è ancora lì l'edificio storico, e vedete insomma come l'alternatore, che era la componente essenziale per la produzione di energia, fosse trasportata in realtà con una forma di trasporto molto arcaica, che era l'utilizzo dei buoi per trasportare questo pezzo. E l'altro fattore di ricchezza è che le Alpi sono diventate di moda, no? Non tutte le Alpi, alcune zone sono diventate di moda e cominciano ad attirare il turismo da fuori. Questo è stesso anno, 1898, una cartolina spedita dal Grand Hotel Carezza, dall'Hotel Carezza anzi, che era uno di questi presidi che c'erano nelle Alpi, in cui la crème della crème dell'alta società europea si trovava. E qui c'è scritto nella cartolina, si legge: da Tires, von Tires auf schönen Wege, hier eingetroffen, prachtvolle Aussicht auf Ortler, Marmolada, Brenta Gruppe, eccetera, eccetera. Che sia riuscito a vedere l'Ortler da lì, non so come abbia fatto, però si vede che aveva una posizione vantaggiosa. Sì, allora probabilmente era passato da lì sopra, no? Aveva fatto. Sì, sì, poi. Sì, noi russi, sì, no? E quindi questa cosa aveva tirato. E qui in Svizzera, no? erano diventate dei fattori di attrazione, anche una volta di capitali, di capacità esterne, ma anche un fattore di ricchezza locale, anche se molto, diciamo, diseguale nella sua distribuzione, no? Come vediamo oggi, insomma, le vallate turistiche e le altre vallate sono molto diverse per quanto riguarda le possibilità economiche. La premessa necessaria di tutte queste vicende però sono le infrastrutture. Senza infrastrutture nelle Alpi non si fa niente, no? E quindi è assolutamente cruciale capire qual è stato il ruolo che le infrastrutture hanno avuto. E c'è questa bella incisione che viene da un libro di viaggi della seconda metà dell'Ottocento, che fa vedere la strada e la ferrovia del Brennero presso Matrai, quindi subito al di là del Brennero. E qui vedete il trenino che esce dal tunnel più lungo, che era il tunnel più lungo all'epoca, e qui la vecchia strada con i carri dei contadini, il maiale è sdraiato in mezzo alla strada qui, e i contadini che chiacchierano fra di loro. La linea del Brennero è stata una realizzazione importantissima per il territorio, perché la prima parte è stata completata nel 1859, è arrivata fino a Bolzano da Verona, e l'attraversamento del Brennero però si è fatto solo nel 1867, perché tecnicamente era complicato. Ma cosa ha consentito questo? Ha consentito di far arrivare gente da fuori, turisti per esempio, questo è stato un vantaggio, ma ha consentito anche, altra cosa fondamentale, di trasportare verso l'esterno i prodotti locali che venivano richiesti, prodotti agricoli richiesti fuori e il cui trasporto era complicato. Pensate alla frutta, per esempio, no? Frutta, le mele, no? Che vengono richieste, il costo di trasporto era molto elevato fatto con altri metodi, invece con la ferrovia è molto più veloce, molto più sicuro, oppure anche al vino, eccetera, no? E quindi il ruolo delle ferrovie è fondamentale, come è stato fondamentale anche noi oggi, ovviamente ci lamentiamo del rumore, dell'inquinamento, eccetera, ma senza l'auto Brennero non c'è niente da fare, lo sviluppo del territorio sarebbe stato uno sviluppo diverso. L'auto Brennero è stata una realizzazione fondamentale sia dal punto di vista della ricaduta economica che dal punto di vista tecnico, ma anche come esperienza di compartecipazione delle istituzioni locali alla creazione di un'infrastruttura, perché nel resto d'Italia l'autostrada l'aveva fatta l'IRI, l'aveva fatto lo Stato. L'IRI non aveva in progetto di fare l'autostrada del Brennero, perché non ne fregava niente di quello che andava fuori dai confini, interessava con l'uso dell'Italia. E allora che cosa è successo? Che la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, la Camera di Commercio di Bolzano, di Trento, di Verona, la provincia di Mantova, di Reggio Emilia, si sono messi tutti d'accordo fra di loro, hanno creato un consorzio e con questo accordo hanno costruito questa realizzazione importante, costruita, che è l'autovelo, e che oggi è diventata un po' una gallina del vuoto, anche se vogliamo, che aiuta a finanziare la nostra autonomia, no? Per dircela tutta. Però no, è stata una realizzazione fondamentale, ci fa capire come queste Alpi vissute e attraversate hanno bisogno però appunto di queste realizzazioni per funzionare. Ma anche la parte austriaca è stata fatta in questo periodo? Sì, certo, era un progetto che è stato fatto interregionale, con un interesse molto forte anche della Baviera, perché la Baviera era interessata, no? Arriva, e quindi i tedeschi ci hanno messo i soldi, hanno fatto pressione sulla comunità economica europea, che ha finanziato, e questo è una vicenda interessante, hanno finanziato, allora la Banca Europea degli Investimenti ha finanziato l'Alto Brennero con i fondi, con la giustificazione che questo avrebbe aiutato l'Italia meridionale, perché l'idea era colleghiamo l'area europea con il sud, no? E siccome per il sud erano previsti dei fondi europei consistenti, quei fondi sono stati messi lì. Poi più che il sud è stato aiutato sul Tirolo, però insomma le cose sono andate così, sempre sud. Ecco, infatti, quella è arrivata dopo. Allora, io vi prendo ancora pochi minuti per una velocissima carrellata su un aspetto che magari è più noioso, ma che comunque forse può essere di vostro interesse, che è una breve descrizione di quelli che sono stati i modi con cui la storia delle Alpi è stata affrontata in passato, cioè la vicenda storiografica. Nel 1979, però sarò veramente rapido, nel 1996, Jean-François Berger, che è stato uno dei grandi storici delle Alpi, questo gentiluomo svizzero molto affascinante, che aveva una bellissima Jaguar blu e una seconda moglie di colore stupenda. Infatti io da giovanissimo ricercatore l'ho visto arrivare a un convegno con questa Jaguar, da cui è scelta questa bellissima signora, da grande voglio essere come lui. Con la moglie mi è andata bene, la Jaguar però non ce l'ho, insomma, vabbè. Ecco, grazie. E questo ha detto, il problema è che la storia delle Alpi non è mai stata tematizzata come tale, no? Lo scrive nel 96, cioè dice sì, sono stati fatti tanti lavori interessanti in giro, però nessuno effettivamente ha cominciato ad affrontare la storia delle Alpi ponendosi le questioni specifiche, facendo i confronti fra i vari territori, no? E questo è un fattore di debolezza in realtà, perché è, per i motivi che abbiamo detto, una storia estremamente interessante. Allora, all'inizio le Alpi sono state viste soprattutto come Alpi attraversate, no? Cos'è che interessava gli storici? Interessava gli scambi che venivano fatti in Europa, e le Alpi venivano soppassate per andare di là, no? E questo, una delle opere più tipiche è questa di Schulte, no? Che parla appunto del commercio tra la Germania e l'Italia nel corso del Medioevo, in cui appunto vengono descritti i percorsi attraverso le Alpi. E poi arriva la maledizione di un maestro 1949, e Fernand Braudel scrive la sua opera straordinaria Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II. Braudel è un maestro conosciuto, insomma, no? Se andate al cimitero Père Lachaise di Parigi, se qualcuno di voi c'è stato, c'è la tomba di Jim Morrison, che è quella che vanno a vedere tutti. Poco più là c'è la tomba di Braudel, che vanno a vedere meno, però è molto bella, c'è un simbolo bronzo del mondo, perché lui aveva studiato appunto l'economia con l'idea di un'economia mondo anche nel passato. E dentro lui, che è tutto interessato al mare, un po' come i romani, no? Con l'area mediterranea, dice: la montagna per solido è un mondo rozzo, un mondo a parte della civiltà, creazioni della città e dei paesi di pianura. La sua storia sta nel non averne. E poi, sì, e poi dice: la montagna è proprio questo, una fabbrica di uomini ad uso altrui, dice lui. E cosa ha in mente? Ha in mente appunto i flussi di lavoro, no, stagionale, che scendono dalle montagne, e ha in mente anche il fatto che dalle vallate svizzere partivano mercenari che poi venivano utilizzati dai re di tutta Europa. Oggi sono rimasti solo in Vaticano, ma una volta gli svizzeri fornivano, no, carne da cannone, e anche grazie a questo sono diventati ricchi gli svizzeri, però, no? Offrivano questo servizio molto richiesto. E della sua vita diffusa, prodica, eternamente perduta, si nutre la storia tutta del mare. Insomma, questa idea che le Alpi fossero un po' fuori dalla storia, un po' marginali, no? E questa maledizione ovviamente che veniva da un maestro come Brodel un po' aggravato anche sulla natura della storia. Le cose cambiano però con gli anni 70, e qua l'aspetto interessante è che cambiano anche perché c'è un interesse politico anche per la storia degli anni 80. Qual è questo interesse politico? È che c'è un interesse da parte della comunità economica europea a creare delle politiche regionali, e le regioni a nord e a sud delle Alpi cominciano ad accordarsi per vedere di trovare una gestione comune. Quindi si fanno dei grandi convegni politici negli anni 70 che coinvolgono politici, sociologi, economisti e storici che si occupano di storia delle Alpi. E quindi c'è una produzione molto importante da questo punto di vista che comincia, e comincia poi a esserci un interesse che viene anche al di fuori del mondo degli storici in senso stretto. Ci sono degli etnologi, antropologi come Pierpaolo Viazzo, per esempio, che scrive un libro fondamentale che esce in inglese nel 1989, in italiano nel 1990, dove si riesce a smentire questo stereotipo delle montagne in difficoltà, delle vallate chiuse eccetera, e fa vedere come in realtà ci sia una sorta di paradosso alpino, per cui le vallate, in realtà le vallate di montagna, anche quelle più alte, stavano meglio di quelle che abbiamo nella popolazione. Andate a vedere gli indicatori relativi alla mortalità, all'aspettativa di vita eccetera, e fa vedere come le strategie che avevano messo in atto gli abitanti delle vallate, che comprendevano attività locali e attività esterne, riuscivano a garantire dei redditi migliori rispetto a quelle della pianura, no? E quindi questa è una cosa che vale la pena di essere indagata, anche se non era dappertutto così, no? I casi che lui aveva studiato poi dimostravano che c'era questa realtà. E poi dal 1990 ad oggi la rete si è ulteriormente estesa, ci sono veramente tanti nuovi aspetti. Se volete leggere un libro solo sulla storia delle Alpi, il mio consiglio è leggete questa Storia delle Alpi 1500-1900 di Jean Mathieu, uno storico grigionese che ha scritto questo volume, si trova appunto anche in italiano, che è una sintesi molto efficace della vicenda delle Alpi in questo periodo. E poi ultime tendenze, ultime ricerche che trattano le Alpi nel loro complesso. C'è un progetto di ricerca che portiamo avanti insieme all'Università di Lipsia e a una ventina di ricercatori e ricercatrici europee su una storia economica delle Alpi in età medievale e moderna. Ci stiamo lavorando da una decina d'anni, speriamo di arrivare a breve a conclusione. Nel frattempo sono usciti due libri di studi preliminari su questa cosa, ma arriveremo anche all'opera finale. E poi questo studio interessante che hanno fatto Alexander Panik dell'Università di Capodistria, Jasper Larsson dell'Università Scandinava e Luca Mocarelli dell'Università di Milano, che studiano appunto le modalità di gestione delle comunità contadine facendo un confronto fra la Scandinavia e le Alpi, no? Vedere come in queste aree estreme dove ci sono modalità, condizioni ambientali molto difficili, si siano adottate delle strategie che hanno consentito però comunque dei livelli elevati di benessere per la popolazione locale, di benessere inteso nei parametri ovviamente che possiamo utilizzare per l'età storica. La rete delle attività di ricerca è una rete ormai sempre più diffusa, sempre più ampia. Ci sono università come Grenoble, Torino, Milano, Università della Svizzera Italiana di Lugano, Innsbruck, Trento e Capodistria, che non è nelle Alpi, ma in cui c'è Alexander Panik che lavora, che è presidente dell'Associazione di Storia delle Alpi. Appunto l'Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi, che pubblica la rivista, questa qua, Histoire des Alpes, che è dedicata proprio alla storia delle Alpi espressamente. Tra l'altro anche questa la trovate in rete, tutti i numeri, tranne gli ultimi, sono consultabili liberamente, e se volete fare un'idea di quale sia la ricerca, la realtà, trovate quella. E poi consentitemi anche che scelte un Trigion Storia e Regione, che nel suo piccolo comunque ha portato avanti negli anni una attività di ricerca comparata, no, tra le diverse regioni dell'arco alpino, e anche questa la trovate in rete, potete accedere alla maggior parte delle riviste che ci sono. Ovviamente non esaurisce tutto, ma questa è l'attività. E ultima cosa, concludo con uno spot, consentitemi, proprio giovedì e venerdì ci sarà un workshop dedicato alla storia dell'alimentazione in area alpina che si terrà qui al Kolpinghaus, se volete qua ho dei volantini, in cui ricercatori e ricercatrici cercheranno di affrontare alcuni aspetti della cultura e dell'economia dell'alimentazione nelle Alpi in chiave storica. Bene? Prima delle patate o dopo? Prima e dopo, compreso tutto. Bene, grazie per l'attenzione. Sì, se ci sono domande volentieri, scusatemi, ho quasi esaurito la voce, ma sono fortemente raffreddato, come avete sentito. Per quanto riguarda la storia adesso delle Alpi... No, non mi serve. No, che mi serve. Ah, ok. Per quanto riguarda Andrea la storia delle Alpi, i disastri che ci sono stati, Carezza, Vaia, eccetera, saranno una cosa... studiabile, perché comunque è una cosa che ha modificato completamente delle aree alpine, immagino che però appunto la magnifica comunità di Fiemme sia come dire molto fluida, no? Nell'aver affrontato questo, e l'altro progetto appunto che c'era in questa cosa, la zona del Vaia, del come si chiamano i cosi degli iPad, no? Che hanno usato quel case history di, come si chiama, quel ragazzo che ha creato i Cube, ho conosciuto, esattamente, sì. Sarà una cosa che comunque cambierà la storia della storia delle Alpi? Ma sì, perché in realtà la storia delle Alpi è segnata da disastri naturali, cioè c'è tutto un filone di ricerca che... portato avanti per esempio da Christian Rohr, che tra l'altro partecipa al nostro progetto di storia economica delle Alpi, e lui si è specializzato ad andare a vedere quali sono stati i disastri naturali del passato, tutti i disastri naturali, inondazioni, valanghe, cavallette, perché nelle Alpi c'è stata anche l'invasione delle cavallette, come nei Blues Brothers, no? Sono andate le cavallette a un certo punto. Ma perché? Perché questo è proprio, da un lato, il segno di quanto fortemente le Alpi dipendano, no, dal fattore naturale, sono dipendenti, e anche in realtà dal fatto che dai disastri, almeno in passato, è stato imparato molto, no? Perché laddove sono successe le cose, si sono messe in atto delle strategie. Noi riusciamo a capire quali sono i posti sicuri, non sottoposti al rischio di valanga o di frana, andando a vedere dove venivano costruiti i masi. No? I masi che sono rimasti, quelli storici, sono costruiti in realtà in posizione che sono sicure, perché hanno introiettato l'esperienza precedente, no? E ci sono stati grandissimi disastri in passato che sono assimilabili a quelli del Vajont, per esempio, con interi paesi che sono stati distrutti perché si è rotto per esempio l'argine di un rago alpino, e quel paese lì è stato spostato e messo in un'altra posizione. Insomma, lo studio di come le comunità del passato hanno reagito a quelli che sono stati i disastri è qualcosa che può aiutarci ancora oggi, no, a capire le cose. E c'è stato un progetto interessantissimo che è stato portato avanti ormai una ventina d'anni fa da alcune università italiane, che è stata quella della costruzione di un database storico di tutti i disastri naturali che ci sono stati in area alpina, cioè frane, valanghe, inondazioni, eccetera. Perché questo è stato tutto georeferenziato e mappato, perché questo consente di avere un'idea di quella che è stata l'evoluzione storica, no, di queste cose, e quindi anche della necessità poi di adottare delle strategie di tutela del territorio. No? Però è una questione importantissima e molto studiata adesso. Sì, anche lì si è visto, no? Poi il lato, quello poi sul Sonnenberg, no? Il lato più secco, diciamo, della Val Venosta. Domande, curiosità? Ma in questo senso della variazione climatica, quindi anche gli alpeggi per esempio potrebbero cambiare? Sicuramente. Allora, in realtà il riscaldamento climatico per le Alpi è un vantaggio. È un vantaggio. Allora, è un problema per noi, come lo vediamo adesso, ma per le società del passato, in gran parte, quando si innalzava la temperatura era meglio. Perché erano fortemente dipendenti dalla produzione agricola, e il fatto di poter estendere la produzione agricola verso l'alto e verso nord era un vantaggio. E non a caso, infatti, nelle fasi di riscaldamento nel passato, la fase che va più o meno a partire dall'800 fino al 1350, no, quella è stata una fase di riscaldamento, sono state fasi di crescita dell'economia europea, perché questo consentiva di estendere l'attività. E in un territorio come quello alpino questo consentirebbe di innalzare l'attività, però bisogna, ovviamente, la questione qui non è quella di fermarlo il riscaldamento climatico, è una questione politica ovviamente importante, è quella di trovare le strategie giuste per adattarsi a quello che sta succedendo, ed è quello che stanno facendo i nostri agricoltori, imprenditori, ad esempio selezionando delle varietà che sono resistenti, no? Sono diverse e che si possono utilizzare. Pensiamo alla diffusione del kernel che viene coltivato a 700-900 metri d'altezza, una cosa impensabile, no? In precedenza, oppure a vitigni come Solaris, per esempio, che resistono a determinate condizioni, e quindi può essere un'opportunità, no? Anche se utilizzata adeguatamente. Con l'olio d'oliva di Merano, che io da piccolo coltivatore di ulivi nelle Marche, devo dire, è una dimostrazione di grande coraggio, però il risultato, insomma, consiglio di dire, è discutibile. Ecco, vabbè. Però non è detto che in futuro possa migliorare. Sì, certo, sì, sì. Sì, grazie. Le tracce di carestie ci sono. E, allora, voi dovete immaginare che nella specializzazione del lavoro le Alpi hanno diventate delle esportatrici sostanzialmente di legname, di bestiame, di prodotti minerari, ed erano diventate di vino in parte, ed erano diventate degli importatori però di cereali, perché ovviamente la conformazione del terreno nelle Alpi, il clima nelle Alpi, non consentiva di produrre cereali a sufficienza, no, per le Alpi. Allora cosa si faceva? Si spostavano i cereali da fuori. È chiaro che quando arrivavano le carestie che colpivano le aree esterne, le Alpi ne risentivano, no, perché la disponibilità di cereali si riduceva. Ma anche qui le aree alpine avevano adottato delle strategie di resistenza, perché se noi andiamo a vedere, cioè, uno studio era proprio presentato in questo workshop che stiamo facendo, quello di Isabella Salvador, che lavora al Muse di Trento, e lei fa vedere, ha studiato il mercato dei cereali in Trentino in età moderna, e fa vedere come i cereali arrivassero in gran parte dalla pianura padana, quindi dalla zona di Mantova, attraverso il mercato di Desenzano, che era il più importante mercato dei cereali dell'Italia del nord in quella fase, ma anche dalla Baviera e addirittura dall'Ungheria in alcuni casi. Cioè, quando le cose andavano male da una parte, c'era sempre il piano B, no? Che si poteva utilizzare. Cioè, cereali che dall'Ungheria, attraverso il Danubio, risalendo l'Inn, arrivavano a Halle e poi attraverso il Brenner venivano trasportati e venduti qui a Bolzano, a Trento, eccetera. Ovviamente costavano di più, però consentivano almeno di tamponare, no? Gli effetti delle cose che erano andate male di là. Poi se andava male da tutte e due le parti si faceva fame, però patate. Bene. Ok, grazie.